Capitolo 9. Religiose triremi da guerra. Partimmo dal porto del Pireo ai primi chiarori dell'alba. Io, Demos, Unai, l'astenia, Peribea, Pleurone, 10 fedelissimi cani e la maggioranza degli uomini reclutati da Demos, viaggiavamo sulla nave sacra Paralo, comandata da Coridemo. Sulla trireme che ci seguiva, l'Ammono, c'era quasi tutto il tiaso dei copisti, compresi Difilo e Oleno, assieme a una decina di schiavi con altrettanti molossi appartenenti al gruppo di Demos. Tutti agli ordini di Menandro, trierarca e braccio destro di Coridemo. Avevamo trascorso un'intera settimana nei preparativi della missione. Io e l'Astenia avevamo comprato nell'Agorà stoffe adatte alle funzioni religiose, per poter cucire i paramenti per buona parte dei componenti delle due navi, compresi gli uomini di Coridemo che avremmo imbarcato nell'Ellesponto. Focione e Coridemo erano riusciti a fornire Demos di 200 spade, mentre il mio compagno aveva fatto tirar fuori dai nascondigli del Pireo archi, frecce e cerbottane pronte da tempo. Peribea e altre schiave si erano incaricate di comprare legumi, grano, olive e fichi secchi, che ci sarebbero serviti una volta partiti da Abdera verso il Pangeo. Durante il corso della settimana, tutti gli uomini delle due navi a turno erano stati addestrati a remare da Coridemo, in una loggia navale di Zea. Nessuno aveva esperienza, anche Unai volle partecipare a prendere. Quella mattina le due triremi vennero tirate fuori dalla loggia solo poche ore prima della partenza, in piena notte. Mentre la Paralo si preparava a separarsi dalla banchina, piazza Ippodamo era praticamente deserta. Sulla baia del Cantaro aleggiava una sottilissima foschia. Tre uomini erano venuti a salutarci e ora i loro volti non riuscivano a mascherare tracce di commozione. Focione, scalzo come sempre, non si era stancato di ripetermi: «Assiotea, cerca di far sentire il peso della tua ragione, soprattutto con Demos. Uccidere inutilmente, ammazzare per vendetta, è da stupidi. Cerca di tornare. Questa città ha bisogno di donne come te». Crepe luminose lottarono per ingentilire la sua faccia arcigna. Iperide mi aveva attanagliato le braccia. Una stretta intima, mentre i suoi occhi erano graffiati dalla disperazione. «Non ce la farete mai. Non riuscirete a togliere il Pangeo al Macedone. E tu non tornerai più». I suoi occhi si conficcavano nel mio cuore, disperati, innamorati. Ofione mi aveva strappato lui e mi abbracciò fino a soffocarmi con la sua rabbiosa commozione. Mentre la Paralo si muoveva, quei tre uomini, accorgendosi della mia emozione, riuscirono a indirizzarmi dei sorrisi che andavano tramutandosi in dolorose espressioni, man mano che i remi spingevano la nave lontano dal molo. L'Astenia mi venne accanto. Anche ella prese a fissare le tre figure che diventavano sempre più piccole. Facevo fatica a riprendermi dalla commozione. «Ma tu, amica mia, perché sei voluta venire con noi?» E cercai i suoi occhi, ma lei li lasciò immersi nella nebbiolina del porto. L'uccisione di Eudosso ha dato uno scrollone alla mia vita. È arrivata l'ora di meritarmi la stima di tutte le persone che ho conosciuto ultimamente. Quelle tre splendide figure che la nebbia sta inghiottendo, il povero Eudosso, Coridemo, Difilo, Peribea, Demos, Unai e tu, Assiotea. E senza girarsi verso di me, mi prese un braccio cercando la mia mano. Non ce la faccio più a succhiare il vomito di Platone, Aristotele, Pseusippo. Mi stringeva la mano, ma non voleva guardarmi. L'Astenia, questa missione è più pericolosa di quella che tu immagini. Ormai il Cantaro era stato inghiottito dalla foschia. Un'angoscia nuova, un velo d'espressione prese a incombere su di me, sulla trireme. Focione e Iperide hanno paura per noi. Si decise a volgere il capo, a guardarmi con quei bellissimi occhi umidi. La mise al corrente della nostra vera missione. «E che cambia, Assiotea? Andiamo a liberare quelle povere creature dal Pangeo e poi quelle dell'Aurio. E non c'è nessuna differenza tra la freccia di un soldato ateniese e quella di un Macedone. Di diverso c'è che ora ho bisogno di fare una cosa buona nella mia vita che giustifichi la mia esistenza». Il tono della sua voce era accorato. «Maledetti, hanno ammazzato creature eccezionali come tua madre, come Marpessa, come Eudosso. Poi si accorse che Demos si era avvicinato a noi e si rivolse a lui. Assiotea mi ha appena messa al corrente del cambiamento di rotta, conta su di me. Il mio compagno, prima di risponderle, mi fissò con quell'espressione degli occhi lievemente schiusi che mi chiedevano se tutto andava bene, e gli risposi con un sorriso rassicurante. Solo allora lui si volse verso l'astenia. Stavo venendo da te proprio per chiederti di aiutarci. Sia tu che Assiotea potreste risultare determinanti per la riuscita di questa missione. La fissava con i suoi impenetrabili occhi neri, che io avevo imparato a comprendere, a intuirvi quell'alone, quel velo luminoso che lui riusciva a nascondere. L'Astenia, devi recitare il ruolo della sacerdotessa. Queste sono navi sacre. Noi ufficialmente andiamo in missione religiosa, di pace, per porgere agli schiavi del Pangeo la possibilità per una vita dopo questa vita. Ad essi non verrà mai concesso di partecipare ai misteri eleusini, quindi non potranno mai avere l'opportunità di incontrare la luce di una vita ultraterrena. So che tu ci sei stata, so che sei legata al segreto, ma noi dobbiamo preparare su queste due navi uno scenario dove tu possa accogliere tutti gli schiavi e fare una cerimonia simile a quella di Eleusi. Ma invece di porgere loro pozioni allucinogene, tu darai loro delle armi. Mentre ai soldati macedoni, se verranno da te, porgerai potentissimi sonniferi, sempre che la tua morale te lo permetta. E non fece nemmeno un tentativo di accennare un sorriso. Gli occhi di Lastenia si spalancarono per la gioia. Sì che me lo permette, Demos. Sarà la mia migliore interpretazione. E non mi importa niente di rivelare i misteri eleusini, niente. Tutto il suo volto si era trasformato in luce, mi fissava entusiasta. Assiotea, anch'io avrò la mia occasione, sarò brava, vedrai. Stringeva i pugni e alzava le braccia al cielo emozionata. Poi tornò a fissare Demos con uno sguardo interrogativo. E il ruolo di Assiotea? Lei è il volto delle statuine. Gli schiavi di tutta l'Ellade aspettano una ragazza di nome Assiotea che verrà a liberare. Proprio in quel momento erano iniziate le operazioni dei novelli marinai che stavano eseguendo l'ordine del trierarca di issare la vela. Lentamente il grande lenzuolo bianco, racchiuso in una cornice dorata, venne offerto al vento che prese a gonfiarlo. La nostra nave era già uscita in mare aperto, seguita a breve distanza dall'altra tre reme. Coridemo ci raggiunse. Tutta gente in gamba, imparano subito. E dette una pacca sulla spalla di Demos. Allora il programma. Non è il caso di rischiare brutti incontri seguendo rotte strane. Preferisco quelle che conosco a memoria. Capo Sunio, Isola di Paro, Nasso, Samo, Chio, Lesbo. Poi costeggiamo la Troade e arriviamo all'Ellesponto, ad Abido, dove si trova la mia piccola flotta. Se i venti etesi ci assistono, 8 o 9 giorni. Ripartiamo da Abido e in serata giungiamo ad Abdera. 1 o 2 giorni al massimo e quindi ci infiliamo nel canale di Taso e arriviamo di fronte al Pangeo a recitare cerimonie religiose. Sorrise con gli occhi, ammiccando l'astenia. Dal mare all'ingresso delle miniere c'è di mezzo una collina e un vallone. Saranno 4 o 5 stadi. Demos ci scrutava intensamente. Anni fa, quando ci sono stato io nel vallone, c'era un accampamento di soldati macedoni e probabilmente c'è ancora. Noi getteremo l'ancora all'entrata della piccola insenatura alla fine della baia, ammesso che lasciano venire sulla nave gli schiavi per assistere ai misteri religiosi. Li faranno arrivare uno ad uno e al ritorno controlleranno se portano armi. I macedoni sono feroci, ma non stupidi. Come faremo, Coridemo? Fui io a interloquire. Scusa, Demos, hai detto che nelle miniere ci sono migliaia di schiavi? Per cui o i macedoni non permetteranno di farli partecipare, oppure dovranno farli venire a gruppi di centinaia, altrimenti occorrerebbero mesi. Infatti non avranno tempo per poterli controllare minuziosamente, ma basterà che si accorgano che uno solo porta con sé un'arma per ammazzarci tutti. Allora i primi dovranno tornare indietro puliti per tranquillizzare i macedoni. Poi l'Astenia dovrà entrare così bene nel ruolo della sacerdotessa ed essere così convincente da far partecipare anche i soldati macedoni per poterli somministrare i sonniferi. Non c'è altra strada, demoni e sicofanti. La voce secca di Coridemo sembrò chiudere il discorso. C'è un'altra strada. Nello sguardo e nella voce di Demos aleggiavano prudenza, timore. Attacco a sorpresa. Di notte. Puro suicidio. Coridemo levò le braccia in aria. In 400 siamo pochi, pochissimi, lo so, ma prova a immaginare. Io e Assiotea entriamo nel Pangeo. Lei non deve recitare alcuna parte né mentire, deve solo raccontare la storia della sua vita. Quei disgraziati diventeranno un esercito di leoni. Il mio compagno mi lanciò uno sguardo fiero. Coridemo mi osservò attentamente, scrutò anche l'astenia. Perdonatemi, io sono uno stratega, un navarco, un trierarca, ma dentro resto pur sempre un mercenario. E a volte dimentico che per un ideale si può capovolgere l'impossibile con il possibile. E aguzzò le fessure strette degli occhi. Io e Menandro resteremo sulle navi con un gruppetto d'uomini per controllare che non arrivino rinforzi dal mare. Speriamo solo che i macedoni accettino che la cerimonia si faccia sulla nave. In quel momento giunse un ai con Titano. L'animale si sdraiò ai miei piedi, sollevando il muso verso la mia mano, che stavo già protendendo per accarezzarlo. Il ragazzo fissò Demos per accertarsi di poter rimanere ad ascoltare i nostri discorsi. Poi venne accanto a me, stringendosi al mio fianco e alzando la testa ogni tanto in modo fiero, cercando i miei occhi. Coridemo si rivolse a lui. Unai, se ci sarà bisogno, credi che il tuo cane, che i nostri cani, saranno capaci di attaccare quelli dei macedoni? Non sono addestrati, ma se quelli attaccano mamma o uno di noi, i nostri cani ci salvano, sicuro. Grazie, ragazzo. E gli posò una mano sulla spalla con un gesto che inorgoglì mio figlio. Poi si rivolse a me, chiedendomi se avevo la mappa di Eudosso per poterla confrontare con le sue. Chiesi a Unai di andare a prenderla nella nostra piccola cassa e poco dopo io, Demos e Coridemo ci mettemmo a esaminarla. Decidemmo di tenerla sempre a portata di mano, osservando continuamente le conformazioni delle isole e delle coste che fiancheggiavano lungo il viaggio. 9 giorni dopo raggiungemmo Abido, nell'Ellesponto, quando nel mare luccicavano solo i rossi balugi nido una giornata di sole che stava per spegnersi. Coridemo guidò la Paralo e la Mono nel mezzo della piccola flotta, mentre lui dava ordine per preparare 200 dei suoi migliori pentasti affinché fossero pronti per l'alba, a noi tutti permise di scendere per mangiare e dormire sulla spiaggia al chiar di luna, accanto al tempio di Afrodite Porne. Accanto al fuoco, acceso per arrostire il pesce che ci avevano offerto gli uomini di Coridemo, si era riunito quasi tutto il tiaso dei copisti. Regnava fiducia. Il viaggio era andato benissimo e non avevamo incrociato navi militari. Il nostro piccolo accampamento venne montato a fianco di quello che ospitava i suoi 400.000 uomini. Coridemo si unì a noi, sistemandosi accanto a Demos. La sua voce non mostrava segni di incertezza. Allora, Demos, sulla Paralo ci saremo tutti noi, il tiaso dei copisti e i tuoi uomini, mentre sulla Mono prenderanno posto i miei migliori 200 peltasti, specializzati in attacchi a sorpresa. Più di questo non posso ridurre la mia flotta nell'Ellesponto. Ieri sera ad Atene è arrivato un messaggero dello stratega Carete. Devo tenermi pronto a partire per Olinto. Credo che il Macedone stia preparandosi ad attaccare. Questo può favorire la nostra missione, interloquì Demos. Se davvero Filippo sta concentrando tutte le sue forze attorno a Olinto, forse richiamerà una parte dei suoi uomini dal Pangeo. Ma il gigante si mise a scuotere il capo, prese il bastone che Onai portava sempre con sé e nella sabbia tracciò le tre punte della penisola calcidica proseguendo per un breve tratto verso ponente. Demos, ma quanto credi che disti Olinto dalle miniere del Pangeo? Via terra, non più di un giorno, e via mare poche ore, più o meno la stessa distanza che c'è tra Atene e Laurio. Non capisci? Se il Macedone dovesse avere notizie che due navi sacre o dell'inferno stanno attaccando le miniere, può permettersi il lusso di lasciare metà esercito ad assediare Olinto e con l'altra metà venire a schiacciarci come mosche. Una luce sanguigna brillò negli occhi del mio compagno. Ma se noi riusciremo a prendere il Pangeo, non solo toglieremo al Macedone la sua principale fonte di ricchezza, ma strategicamente con le nostre migliaia di schiavi guerrieri diventeremo una spina nel suo fianco. E strappò il bastone dalle mani dello stratega, mettendosi a tracciare una scia nella sabbia. Se non ricordo male, qui, sul fianco sinistro del monte Pangeo, scende il fiume Struma. E che cos'è il fiume Struma? Praticamente è il confine orientale della Macedonia. E conficcò il bastone nella sabbia. Quello che voglio dire, Coridemo, è che la nostra missione è così folle che, anche se gli arriverà la notizia del nostro attacco, lui non interverrà. Si muoverà solo se vedrà scendere in campo la tua flotta e quella di Carete che giungerà ad Atene, ma non distoglierà le sue forze per due moscerini, non indebolirà il suo esercito per dei pazzi, perché penserebbe che la nostra è nient'altro che un'azione di disturbo, un tentativo per fargli abbandonare l'assedio di Olinto. Seguivamo tutti in assoluto silenzio la disputa fra i due. Su tutti i volti si leggeva un'intensa partecipazione emotiva. Abbandonammo Abido, costeggiando le isole di Imbro e Samotracia. Le nostre due triremi andavano spezzando striature purpuree del tramonto sul mare, quando raggiungemmo una piccola insenatura nel lato occidentale dell'isola di Taso. Avremmo potuto attraccare nel porto militare situato nel canale di fronte alla terraferma della Tracia, in quanto l'isola era riuscita a conservare la sua indipendenza, non piegandosi al Macedone, ed era rimasta in ottimi rapporti con Atene. Ma Coridemo giudicò più prudente non esporci troppo. Abdera e Neapolis, invece, erano cadute sotto la dominazione macedone, ma da qualche mese la guarnigione di Filippo aveva lasciato le due città, raggiungendo il grosso dell'esercito che assediava Olinto. Nella rada del porto di Abdera era rimasta solo una trireme in cattive condizioni, che i marinai da alcune settimane stavano cercando di sistemare. Tutte queste notizie le ottenemmo da Eumeo, uno dei peltasti di Coridemo, che era stato la settimana prima a Taso con il pretesto di comprare alcuni orci del famoso vino dell'isola. A bordo di una piccola oneraria, mentre il sole incendiava il mare alle nostre spalle, io, Demos, Unai e Eumeo e il fido Titano raggiungemmo il porto più piccolo di Abdera, quello di Levante. Eumeo era pratico della città. Pleurone aveva sentito parlare di un filosofo allievo di Metrodoro di Chio, tale Anassarco di Abdera. Ci indicarono una taverna dove usava recarsi la sera, ma non lo trovammo. Ci facemmo accompagnare sino a casa sua senza risultato alcuno. Dopo una serie infinita di tentativi di giri, quando ormai disperavamo di poterlo incontrare, lo trovammo alla prima taverna da dove eravamo partiti. Era un uomo sui 30 anni, capelli ricci e neri, faccia schietta, sincera, coperta da una barba corta. Ci sedemmo allo stesso tavolo, all'aperto, quasi sul bordo del mare. Alla nostra destra una splendida luna illuminava l'isola di Taso. «Siate felici! Che strano gruppo è il vostro!» sorrideva con occhi smarriti. «E tu, Assiotea di Fliunte, vuoi farmi intendere che assieme alla tua amica l'Astenia di Mantinea frequentate l'Accademia di Platone?» E scuoteva il capo, invitandoci ad assaggiare il vino, cercando di vincere le mie resistenze. «Bevete!» e portate con voi il bel ricordo di questo nettere di Taso e di Abdera. Mentre Demos, Eumeo e Unai lo accontentavano tracannando un intero bicchiere di vino, io ne provai solo un dito, una vera delizia, e glielo dissi, rendendolo felice. Anassarco, io e l'Astenia non metteremo mai più piede in quell'accademia. Il perché te lo spiego subito, se puoi dedicarci un po' del tuo tempo. L'uomo mi invitò a proseguire. Non ci entreremo più perché lì è tutto vecchio e ammuffito. Là dentro il cammino del pensiero umano si è fermato, mentre noi vogliamo aprire una scuola con due materie, il cinismo e l'atomismo. Come maestro cinico abbiamo Diogene. Non mi lasciò proseguire. Diogene di Sinope. Non l'ho mai conosciuto, ma la sua fama è giunta sin qui. Negli occhi gli brillò una luce entusiastica. Anassarco, ascolta, probabilmente Diogene è stata l'ultima persona ad aver visto Democrito vivo. Per aprire una scuola occorre conoscere il pensiero dei maestri fondatori. Stiamo cercando le opere di Democrito. Quando ormai 99enne si recò ad Atene, lesse pubblicamente il piccolo ordinamento, ma qualcuno fece sparire sia lui che il suo libro. Mi sentivo emozionata. Democrito portò con sé e lesse in pubblico all'Agorà di Atene e al Teatro Dioniso anche l'opera del suo maestro Leucippo, Il Grande Ordinamento. Gli occhi smarriti di Anassarco si accesero. Allora Metrodoro aveva ragione. Lui ha conosciuto Democrito e aveva letto Il Grande Ordinamento di Leucippo, il vero fondatore dell'atomismo. La delusione calò nel mio cuore. Quindi, Anassarco, tu non hai avuto occasione di leggerlo. Sul volto sincero dell'uomo apparve un'espressione di rammarico. Purtroppo non ho potuto leggere né il grande né il piccolo ordinamento. Quel poco che so dell'atomismo me l'ha trasmesso oralmente il mio grande maestro Metrodoro di Chio. Gli occhi chiari dello studioso si riempirono di rabbia mista dolore. Il danno che sta arrecando Platone al cammino dell'uomo è incalcolabile. Il suo sguardo malevolo si ingentilì, mentre gli occhi si soffermavano sul faccino attento di Unai, che non si perdeva una sola parola. Quel maledetto vecchio ha distorto il pensiero di grandi personaggi come il suo maestro Socrate. Assieme al suo fido Stagirita, ha pronunciato un lieve riconoscimento verso il grande Anassagora. Vi rendete conto? Anassagora costretto a subire un processo per impietà in quella maledetta città di Atene. Perché le sue teorie astronomiche erano contrarie alla tradizione, perché aveva negato l'esistenza degli dèi. Leucippo, eclissato, fatto scomparire. Il mio maestro Metrodoro me l'ha sempre detto: Anassarco, non avvicinarti ad Atene. Lì il pensiero non è libero. Lì è tutta una questione di potere, di denaro. L'Accademia di Platone è stata fondata per tenere inchiodato il mondo ai vecchi concetti. Ad Atene è stato fatto sparire il nostro grande maestro Democrito. Le mani gli tremavano, sfiorò con dita delicate la fronte di Unai. Osservate gli occhi di questo ragazzo, sono l'espressione della mente umana proiettata verso l'universo sconosciuto, e sollevò gli occhi al cielo cosparso di miriadi di stelle. Guardate la Via Lattea, quante stelle, quanti cieli. Tutto questo è un universo eterno e infinito, e ci sono mondi infiniti. Questo studiavano Leucippo e Democrito, questo indagava il loro allievo e mio maestro Metrodoro. E ci sono altri studiosi che potrebbero seguire i loro passi, come Eudosso di Cnido. Metrodoro mi ha parlato di lui, dice che è uno studioso eccezionale, un grande astronomo. Dovette accorgersi del dolore sul mio volto e restò così, le mani bloccate e protese verso il cielo. Gli raccontai tutto, omettendo il proseguimento della nostra missione verso il Pangeo. I suoi occhi divennero ancora più smarriti. Mi dispiace, Ansiotea. Volse il capo verso l'isola di Taso. I più grandi geni dell'Ellade sono nati e vissuti lontano da Atene. Quella città non è adatta agli studiosi che vogliono far avanzare il progresso scientifico, ai filosofi che vorrebbero cambiare il pensiero umano, scrollandosi di dosso una volta per tutti gli dèi, concentrando tutte le forze sull'unica cosa certa, la vita. Questa nostra unica, piccola, irripetibile vita. E accarezzai anch'io la testa di Unai. La penso come te, Anassarco, ma io, assieme a Diogene, fonderò una scuola proprio ad Atene. È quella città che ha bisogno di menti libere per poter contrastare l'Accademia di Platone. Devo farlo per realizzare il sogno di Democrito e di Eudosso, usando proprio la cassettina d'oro di Democrito. Cercai lo sguardo triste dell'uomo. Aveva famiglia, Democrito. Pensi che potremmo parlare con qualcuno o almeno visitare la casa dove viveva? La moglie morì molti anni fa. Aveva un figlio, ma di lui non si sa nulla. Casa sua si trova ai piedi dell'Acropoli, qui dietro, dove inizia la collina. È abbandonata, ma se volete posso portarvici domani con la luce del sole. Non riusciva a scacciare l'apprensione che era calata sul suo volto. Demos mi gettò un'occhiata e si intromise nella conversazione. Anassarco, perché non ci accompagni questa sera? Domani mattina vorremmo riprendere il viaggio. E abbozzò una specie di sorriso. Certo che posso accompagnarvi adesso, la luna basta per mostrare quel poco che è rimasto. Una curiosità, Anassarco, a chi poteva appartenere la cassettina d'oro che Democrito consegnò a Diogene? Demos si era alzato in piedi. Lo vedevo impaziente, il suo pensiero era già al Pangeo. Sicuramente era la sua. Fino a 15 anni fa, là, vedete, oltre la piccola rada dove c'è la trireme dei pirati macedoni, ecco, oltre il promontorio era attiva una miniera d'oro e molti cittadini ebbero la concessione di sfruttarne delle gallerie e probabilmente la famiglia di Democrito partecipò. Tornò a fissarci col suo volto schietto, senza ombre. Niente di strano, amici, in questa regione. Termon, Eion, Stagira, Pangeo, Scapteile, Abdera, Madenocrorio, Maronea, tutte miniere d'oro. Perché credete che il Macedone stia utilizzando tutto il suo esercito per conquistare questa fascia di terra? E perché pensate che Atene vorrebbe tenerla sotto la sua influenza? Per i filosofi e gli scienziati che nascono qui in Abdera? E liberò una risata amara. Per l'oro, il maledetto oro. Si alzò in piedi, fece un cenno all'oste e ci invitò a seguirlo. Mentre avanzavamo lungo le stradine illuminate dalla luna, Demos chiese allo studioso cosa avesse voluto dire a proposito dei pirati di Filippo. Il Macedone ha stretto un patto con i pirati, ormai qui lo sanno tutti. Filippo permette loro di attaccare qualunque nave senza intervenire con la sua flotta, purché si rispettino le triremi macedoni e purché ogni tanto gli facciano qualche favore. Unai e Titano, assieme a Eumeo, erano gli ultimi della fila. Anassarco conosceva a memoria le stradine di Abdera. Giungemmo a destinazione dopo aver fiancheggiato il teatro. L'Acropoli era sopra di noi. Ci trovavamo quasi a metà collina, non distanti dal santuario di Demetra, al limite di un piccolo dirupo da cui si scorgevano i riflessi della luna sul mare. Era una casa abbandonata, senza porte. Anassarco e Demos accesero due torce e ci fecero strada. Entrammo nel peristilio. Il giardino centrale era pieno di sterpaglie, ma una specie di statua di pietra vitroneggiava, completamente avviluppata dall'edera e altri rampicanti. Dovevano essere una decina di stanze e lo studioso ce le indicò, tutte vuote e desolate. Nessuno vuol venire ad abitare nella casa della magia. Così la chiamano quelli di Abdera. Democrito viene ricordato come colui che ha sfidato gli dèi, che dopo il suo viaggio ad Atene partì per il Monte Olimpo per smascherarli. La leggenda narra che il grande scienziato riuscì a strappare la maschera a tutti gli dèi, i quali vennero tramutati in comuni mortali e dovettero tornare in mezzo agli uomini. Tutti, tranne uno, Ares, il dio della guerra, il quale lo trasformò in donna e lo scacciò dall'Olimpo. Democrito vagò finché tornò qui, ad Abdera, nel giardino di casa sua, dove c'era un grosso blocco di pietra. Si mise a scolpire per giorni e giorni. Poi, in una notte di luna piena come questa, si trasformò in tantissime particelle, nascondendosi per sempre nella statua che aveva scolpito. Anassarco ci guidò nel giardino. Dovevamo farci strada tra erbacce e sterpaglie. Ci avvicinammo alla statua. Titano sfuggì alla presa di Unai, corse avanti a tutti, impedendo a Demos e a Anassarco di proseguire. Non ringhiava, ma ululava quasi gemendo. Giungemmo ai piedi della statua. Demos afferrò il bastone di Unai e prese a sradicare l'edera e gli altri rampicanti che imprigionavano la figura. Ruppe, strappò qualche brandello di roccia presa a mostrarsi alla luna, fino a quando la figura apparve. Era una statua incompleta, solo un volto che scaturiva dalla roccia, una faccia ricoperta di muffa e di muschio. Titano soffriva, piangeva. Mi fece largo attraverso Anassarco e Demos. Con le mani cominciai a pulire il volto scolpito nella pietra, un volto di donna. Pulivo mentre il mio cuore aveva preso a battere forte, un viso simile al mio. Titano venne ad accucciarsi davanti a me e guardava la statua, guaiendo sommessamente. Anassarco fissò attentamente la scultura, poi volse il capo, guardandomi, occhi smarriti. Assiotea, sembra il tuo volto. Eumeo ed Emos convennero che con quella luna piena si poteva rientrare subito sull'isola di Taso. Non c'erano motivi per rimanere ancora ad Abdera. Con la piccola oneraria facemmo un giro verso Levante per evitare di essere visti dalla trirreme dei pirati. Io e Unai aiutammo Eumeo ed Emos a remare. Eravamo sfiniti, ma non volevamo perdere tempo. Alla fine il caratteristico fischio di Unai ci annunciò alle nostre triremi. Quando salimmo sulla Paralo, Coridemo ci chiamò a poppa. La sua voce era possente e donava fiducia. Allora, amici, siamo in anticipo di 2 giorni rispetto al programma. L'operazione deve essere come un lampo. Attacchiamo stanotte. La situazione strategica è buona, tranne una trirreme di pirati in riparazione nel porto di Abdera. Non ci sono altre imbarcazioni ostili nei paraggi. Nel porto della amica Taso non ci sono navi macedoni. Quindi dal mare non dovremo correre alcun pericolo. Il contingente macedone addetto alla guardia delle miniere dovrebbe aggirarsi sulle 3.000 unità, forse meno. Queste sono le ultime cifre raccolte da Omeo. L'assedio a Olinto sta prosciugando tutte le forze del macedone. Allora partiamo, proviamo a strappare il Pangeo a Filippo. Se ci riusciamo, io corro ad Abido e torno con la mia flotta a presidiare questo tratto di mare in attesa di ordini e notizie da Atene. Adesso la parola a Demos, che guiderà l'operazione a terra, mentre noi sulla spiaggia faremo la rappresentazione teatrale dei misteri religiosi. Demos abbracciò tutti col suo sguardo grave. La luna gettava una luminosità indomita sul suo bel volto. Non vi avrei mai trascinato in questa avventura se non conoscessi questi posti alla perfezione. Sono stato lì dentro per quasi 4 anni. Ho tentato di fuggire 2 volte da quell'inferno. Vi dico che se non accade un evento imponderabile, ce la facciamo. Proprio per questo, nemmeno gli uomini che verranno con me sapranno dove andremo. Soltanto io. Voi della Paralo dovete solo fare spettacolo. Anche se non convincerete le guardie macedoni a far uscire un po' di schiavi per prendere i misteri di Anaitis, anche se non farete bere il sonnifero alle guardie, l'operazione può riuscire ugualmente. Più sarete bravi a distrarre le guardie, più probabilità avremo noi di far sollevare gli schiavi minatori. Non vi dico altro, il tempo vola, è giunta l'ora dell'azione. Levò le mani al cielo, alla luna, in segno di incoraggiamento, poi mi fece un cenno. Voleva che parlassi anch'io. Mi feci coraggio. Tutti i miei amici erano attentissimi, nei loro occhi la fiducia non vacillava. Non dimenticherò mai la piccola Ania, morta fra le mie braccia nell'inferno dell'Aurio. E quando mi mancheranno le forze o il coraggio per proseguire, penserò a quella creatura di 6 anni, costretta a intrufolarsi in quei budelli della terra per trasportare massi di roccia argentifera e portarli fino al carrello, senza acqua, senza amore, senza sole, mentre doveva stare in una casa a giocare con le bambole. Penserò ad Ania e andrò avanti con un coraggio e una forza che spaventerà persino la morte quando mi verrà incontro. E mi accucciai accanto a Unai, che mi strinse una mano fra le sue con una dolcezza che inondò l'anima di forza. Coridemo gridò l'ordine. L'ancora fu tirata a bordo. Un'auletta prese a dare ritmo per i rematori con il suo aulos e la nostra trireme prese a muoversi. Subito ci seguì l'altra nave guidata da Menandro. Ci muovemmo costeggiando l'isola di Taso verso Ponente. Mai si era vista una luna così chiara. La via d'argento nel mare sembrava indicarci il cammino, mentre i rematori affondavano i remi nell'acqua con regolarità e determinazione. Chi non era ancora pronto indossò i paramenti per la funzione religiosa. Una tunica tempestata di canne, lunghe 4 palmi circa, pitturate con una vernice dorata. Costeggiato un quarto dell'isola, apparve la baia, con la città di Neapolis al fondo, a oriente, e le 2 piccole insenature all'inizio, di fronte a noi, a ponente, con alle spalle minacciosa la dimora infernale di Orfeo, il monte Pangeo. Demos venne a inginocchiarsi davanti a me e Unai. Titano ci guardava con occhi mansueti. Fra due clessidre non avremo tempo per parlare. Assiotea, non so esprimervi bene come riesci a fare tu. Dalla vita non ho avuto nulla, ma da quel giorno che fosti costretta a scendere nell'inferno dell'Aureo assieme a me, la mia vita che sembrava oscura, come quella montagna di fronte a noi, fu come se venisse spaccata e aperta da una strada di luce. Tu sei stata la luce della mia vita e non riuscivo a trattenere la commozione dietro quegli occhi freddi. Nel vederlo così mi sentivo anch'io stravolta dall'emozione. Gli presi una mano fra le mie. Unai aspettava prudentemente, poi, vedendo che c'era posto anche per lui, aggiunse: Ma la stessa cosa per me. Io ero un pastore schiavo trovato nella spazzatura. Tu mi hai preso fra le braccia e infilò una mano in mezzo alle mie e a quelle di Demos. E mi hai dato anche Demos, un padre. Guai stanotte a chi ti fa del male. Io e Titano lo uccidiamo senza pietà. Unai, non ce ne sarà bisogno. Demos ha studiato un piano che non ci farà correre pericoli, vedrai. Sfiorai le labbra di Demos con la mia bocca. Non può finire qui. Non può finire qui. Demos sussurrò. Ma questi momenti valgono una vita intera, Siotea. Una vita intera. Il suo volto aveva riacquistato la compostezza dell'uomo forte, deciso. Ricordati di stare sempre dietro di me. Unai e Titano ti seguiranno sempre. E se ci fosse bisogno, non esitare a usare quel flauto. Questa è una guerra, Siotea, e noi stiamo lottando per abolire la schiavitù.